Rassegna eventi. Eccoci di nuovo con i microfoni accesi dalla Tana del Wombat per rallegrarvi e informarvi con la rassegna eventi della settimana tratta dalla punta.org. Questo è Radio Wombat, state ascoltando la Trapunta, nuovissimo appuntamento del lunedì in diretta e poi con repliche il martedì e il giovedì su tutti gli eventi degli spazi autogestiti e dei collettivi fiorentini. Oh yes, Bricobaldo, io sono felicissimo e parlo anche English, tanto che sono felice di essere qui. Questa è la seconda puntata di questa nuova trasmissione, la Trapunta, aggiornamenti dagli spazi dei collettivi fiorentini. Ricordiamo subito, per chi ci volesse contattare, in Siberia, chiocciola posta wombat, chiocciola in siberia.net, e anche ricordo, per chi volesse, il numero privato di Bricobaldo, 329-4866. Sì, esatto. Chiamate soprattutto quello, tra l'altro. Avanti. E la Trapunta, che cos'è la Trapunta? Lo facciamo ripassino? Ripassino, la Trapunta è un bello spiegone, diciamo, che per chi ci avesse perso, la settimana scorsa lo ha fatto il buon Ginox della Club Fiorentina. Decisamente. E a quella intanto rimandiamo, in streaming, in podcast sul sito. Comunque si tratta fondamentalmente di una trasmissione che fa una rassegna degli eventi presenti sulla piattaforma lapunta.org, è una piattaforma autogestita, un nuovo ingresso nella vita fiorentina, perché è attiva da agosto e noi ci occupiamo di diffonderla via radio e anche di approfondire i temi più interessanti che scegliamo per voi appositamente ogni settimana. E quindi è questo, niente, potete visitare la punta.org, potete pubblicarci gli eventi se avete un account, se non l'avete dovete chiederlo a postawombat@insiberia.net, se invece vi capita di ricevere una mail da postawombat@insiberia.net è perché noi ci siamo accorti delle vostre iniziative, le abbiamo caricate e poi siamo lì che vi stimoliamo a farlo da soli e da sole. Una settimana bella, densa di iniziative, tra l'altro anche molto interessanti. Avevamo anticipato qualcosa settimana scorsa, avevamo detto che avremmo parlato in modo più approfondito della questione Airbnb e della questione, insomma, la turistificazione non solo del centro di Firenze, bensì andando anche un po' a vedere che cosa succede al di fuori del centro, nella piana, per esattezza all'aeroporto. Ci sono eventi sia sabato che domenica. Ma cosa noi approfondiremo oggi? Oggi approfondiremo appunto l'evento, quello previsto per venerdì 15, la presentazione di Airbnb Città Merce con l'autrice Sara Gainsford, che fa parte della rete SET. Tra l'altro sarà un evento che verrà registrato dal Wombat, quindi poi sarà disponibile anche fra i podcast, se riusciamo, con tutte le difficoltà tecniche che notoriamente ci accompagnano, lo manderemo anche in diretta. Approfondiremo poi: vogliamo il Parco della Piana e non l'aeroporto, turistificazione e infrastrutture nocive. Vi sarà una lezione in piazza il sabato e poi, per ripetersi, domenica invece al presidio non aeroporto, non inceneritore. Ma di questo ne parleremo con uno dei relatori, Antonio Fiorentino, che ancora non è qua, ma dovrebbe arrivare a brevissimo. Ci contiamo tantissimo. E nel frattempo, che ne dici? Io metterei una canzoncina. Bravo. Ci prepariamo a raccontarvi un po' degli eventi della settimana e poi avanti tutta. Top. Con Sara. Via. Wombat. Eh sì. Comprati un mazzo di fiori che poi ti do i soldi. Cerca di farti bello, più bella di quello che sei. Muoviti, fai presto, che ti voglio vedere. Non sbagliare via e porta qualcosa da bere. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Appena te ne vai, olocausto di tutti i poeti. Che non è né figlio della regina né figlio del re. Dai l'acqua alla pianta dei sogni, intanto io accendo il camino. Cammina vicino a me, ma non starmi vicino. Tutti i difetti che ho sono peggio di quello che pensi. Domani mattina avrò pezzi di te in mezzo ai denti. Non c'è pericolo, ho una fame senza fine. Chissà se non mi hai sentito o non mi hai voluto sentire. Creato me, principe che non è, né figlio della regina, né figlio del re. Creato me, un principe che non è, né figlio della regina, né figlio del re. Dunque, torniamo in regia dopo il pezzo. Pronto. E iniziamo subito con la rassegna eventi dalla Funta.org. Si inizia da lunedì, oggi. Quindi oggi sono iniziate le prenotazioni per il Pullman da Firenze per la manifestazione nazionale contro la violenza maschile e di genere, che sarà il 23 di novembre a Roma. Non ho di meno, organizza un Pullman con il costo di 20 euro. Se non ve lo potete permettere, specificano, c'è uno sconto di 15 euro. Se volete pagare di più, anche per chi non se lo può permettere, siete i benvenuti. Dove e quando è possibile comprare i biglietti? Alla Biblioteca Femminista in via Fiesolana, nei seguenti orari: lunedì 11 novembre, cioè stasera, tra le 19 e le 20, giovedì 14 novembre fra le 16.30 e le 19, lunedì 18 novembre tra le 19 e le 20 e giovedì 21 novembre tra le 19 e le 20. Quindi poi, fra l'altro, saranno anche acquistabili durante tutte le prossime assemblee, di non una di meno, che si tengono il mercoledì dalle 19 in via Fiesolana 2B. Sempre stasera, sempre lunedì, alle 20 e alle 22, invece, due film allo Spazio Alfieri, in via dell'Ulivo. Organizzati da studenti di sinistra, torna il grande cinema per gli studenti a titolo gratuito, per un accesso diffuso ed uguale alla produzione culturale. Dove si svolge questo? Appunto allo Spazio Alfieri, quindi in centro, per la lotta alla turistificazione selvaggia che limita la nostra agibilità in città. Stasera alle 20 La Casa sul Mare e a seguire Santiago Italia, assolutamente adatto visto anche cosa sta succedendo in Cile. Direi proprio di sì. Invece martedì 12 novembre dalle 17.30 alle 19.30 presso il Teatro dell'Affatelamento in via Giampaolo Orsini 73 contro la libertà di scelta delle donne. Medici obiettori e finanziamenti della regione agli antiabortisti. È un incontro organizzato da, non una di meno, Libere Tutte, il Circolo UAR di Firenze, il Laboratorio per la Laicità, il Giardino dei Ciliegi. Tutte queste sigle promuovono un dibattito sull'effettiva applicazione della legge 194 del 78. La legge 194 del 78, fra l'altro, ha una storia che inizia, diciamo, oppure inizia, ha avuto un punto di svolta proprio a Firenze, ma magari ne parleremo più avanti. Ne parliamo con Luisa Petrucci di Libere Tutte, Anna Pompili, ginecologa e amica, che è l'Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto, Mirko Zamboni, No, Zana Boni, che è un'attivista per i diritti civili, Simonetta Soldani, Società Italiana delle Storiche, e Cinzia Sciuto, che è saggista, giornalista e redattrice di Micromega. Tutti presenti. Mercoledì 13 novembre, invece, alle 14.30, un presidio chiamato dagli studenti dell'Università di Agraria sotto al Rettorato, in piazza San Marco. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, abbiamo ospitato qua in trasmissione Francesco del collettivo di Agraria, che ci raccontavano della loro lotta per la mensa, che è stata interrotta, il servizio mensa è stato interrotto senza che sia prevista una riapertura. Sono state organizzate un sacco di cose, pranzi autogestiti come quello che abbiamo raccontato settimana scorsa, sotto la pioggia, firme, purtroppo per loro. Purtroppo. Assemblee, e adesso stanno dicendo è tempo che le nostre richieste vengano ascoltate. Per questo invitiamo tutti gli studenti e le studentesse a lottare per difendere il proprio diritto allo studio. Il ritrovo è appunto mercoledì 13 alle 14.30 in piazza San Marco di fronte al Rettorato. Se l'università non ci pensa, riprendiamoci la mensa, che fa anche rima. Che fa anche rima, bravi e brave. Mercoledì 13 dicembre dalle 19 alle 23, IFDU, il laboratorio della Club Fiorentino, continua con le chiacchiere sul code reversing. Continua perché siamo alla terza parte, dove fondamentalmente andranno a parlare del formati dei file. Quindi abbiamo detto dalle 19 alle 23 al Next Emerson in via di Bellagio 15. Sempre mercoledì, ma questo di sera alle 20 alla Casa del Popolo di Grassina, in piazza Umberto I 13 a Bagno Ripoli, appunto. Dalle 19.30 aggiornamento sulla situazione del Rojava, l'iniziativa è appunto si intitola Gli Stati Imperialisti contro un popolo multietnico. Alle 19.30 aggiornamento sulla situazione del Rojava, dalle 20.15 apericena di raccolta fondi per la mezzaluna rossa curda, con consegna del ricavato ad un rappresentante della comunità curda in Toscana. Interventi e dibattito sul Rojava invece alle 21.30. Si richiede un'offerta minima di 10 euro, ma abbiamo capito qual è la causa. Ci sarà una lotteria a premi. Per prenotazioni le informazioni sono appunto sulla punta.org con i numeri di telefono. Sempre mercoledì 13 novembre dalle 20.30 alle 22.30 passeggiata a Lucia alla città. All'associazione Fisolana in via Fisolana 2B a Firenze, in solidarietà alle compagne di Lucia Isiesta che stanno vivendo l'emergenza del distacco delle utenze e la minaccia di sgombero. Faremo una passeggiata in città ricordando a tutti e tutte che non ci faremo mettere al buio. Lucia Isiesta è uno spazio romano, se non mi sbaglio, che sta vivendo appunto un momento di difficoltà con un rischio sgombero molto alto. Sempre in tema Cile, ma è normale e giusto che sia così, allo spazio autogestito del Polo di Novoli, nell'edificio D5, l'aula 6. Cosa sta succedendo in Cile? Quali sono le dinamiche, gli interessi e le rivendicazioni dietro alle rivolte cilene? Perché è necessario solidarizzare con questa rivolta? Quali sono le dinamiche socio-economiche dopo il colpo di Stato del fascista Pinochet del 1973? Ne parliamo con Taomi Zapata, compagno cileno del collettivo di Scienze Politiche di Milano, che si occupa di divulgazione della situazione cilena in Italia, e Arnoldo Mora, componente della comunità cilena a Firenze, rifugiato politico in Italia dopo il colpo di Stato di Pinochet, appunto appoggiato, ricordiamo, dalle potenze occidentali, USA in primis. Giovedì 14, allo spazio autogestito di Novoli, presso il Polo di Novoli, in aula 6. Andiamo a venerdì 15 novembre, fra le 17 e la mezzanotte, vi sarà, attenzione attenzione, tanti auguri PDM, 4 anni di autogestione dello studente autogestito Ponte di Mezzo, in via del Ponte di Mezzo 27. Sono 4 anni di iniziative autogestione, 4 anni di lotta per il diritto allo studio, da appunto venerdì dalle 17 in via del Ponte di Mezzo con... ne avremo delle belle, scrivono loro sull'evento, perché adesso è in aggiornamento. Le lotte dello studentato PDM più o meno le conosciamo attraverso l'autogestione, l'auto-organizzazione. Hanno rimesso in funzione uno studentato che dà un tetto a tutti quegli studenti che non accedono o che hanno perso la borsa di studio e che hanno difficoltà a portare avanti un percorso di studi in una città dove gli affitti sono un ladrocinio, come a Firenze. Siamo a venerdì 15 novembre, lo accenniamo soltanto questo evento perché lo approfondiremo fra molto poco, alle 17 nella sala delle Leopoldine in Piazza Tasso, presentazione di Airbnb Città Merce con l'autrice Sara Gainsforth, appunto in Piazza Tasso. Ne parleremo oltre che con l'autrice, con Antonio Fiorentino, Laura Sogli, la rete Set Firenze e l'occupazione di Via del Leone. La sala delle Leopoldine credo sia quella della biblioteca Tuar l'Altana. Sì, esatto, è quella là, e fra l'altro sull'evento c'è scritto, ci sono vari loghi, c'è cioè per un'altra città la rete 7, Via del Leone e anche Radio Wombat, e anche noi. Perché dovremmo riuscire a mandare il tutto in diretta. È un po' un appuntamento abbastanza importante per la città di Firenze, un ottimo libro molto chiaro e che porta alla luce delle cose un po' raccapriccianti. Riguardo alla piattaforma Airbnb, naturalmente. Sempre venerdì 15 novembre dalle 20 alle 22, Azione Gay e Lesbica in Via Pisana 32 Rosso organizza Party in Bus, dove vi sarà un venerdì 15 novembre ci incontriamo con Azione Gay e Lesbica in Via Pisana per fare un aperitivo karaoke. Aperitivo, karaoke, giochi e musica con DJ set con Le Blonde, Pontil Selecta, e ci scateremo in ballo. Bene, quindi tutto questo serve per finanziare il bus in vista della manifestazione del 23 novembre a Roma. Siamo sempre ancora a venerdì in questa settimana, come sentite, appunto ricchissima di eventi qua a Firenze. Dalle 22:30 al CPA Firenze Sud in via di Villa Magna, Bumpy Crew, 17° anniversario, reggae, dancehall night. Special guest from Jamaica, Lone Ranger e DJ Fatta Soul Stereo. Alle 21 cena sociale, apertura e inizio live dalle 22:30, ingresso con 3 euro, non vogliamo fasci, nemmeno vetro, nemmeno sbirri, né rompi coglioni. Invece andiamo a sabato che è il 16 novembre, dalle 9:30 alle 13, boycott Airbnb. L'iniziativa al nome boycott Airbnb, 100 case, 100 sfratti. Airbnb sapeva bene che cosa fa, ma proprio il giorno 16, quindi sabato, ha in programma un evento che si chiama 100 case per 100 idee. Fondamentalmente stanno cercando di creare un movimento politico a partire da degli host di Airbnb. Tutto questo fa veramente accapponare la pelle, quindi l'appuntamento è in Piazza di Santo Spirito dalle 9:30 per far sì che questa voce non possa prendere campo in una città già fortemente in difficoltà sotto quel punto di vista degli affitti turistici, degli affitti un po' in generale. Quindi bisogna essere presenti, bisogna lottare. Ripeto, Santo Spirito alle 9:30, sabato 16. Questo sabato, sempre al CPA, invece, c'è una serata musicale in collaborazione col collettivo Smash Sound. Dalle 21 c'è Cena Popolare, che è autofinanziamento per il collettivo. Diciamo subito, cosa si mangia? Pasta col sugo di rosticciana e salsiccia, pasta con cavolfiori affogato nella curcuma, roast beef al forno, torta di farina con ceci e verdure, vino, acqua. Ci si prenota sulla pagina Facebook del collettivo Smash Sound. Poi dalle 22 musica con Ex Noi dai Paesi Baschi, sempre Peggio Oi di Milano, Tondino Boys Oi da Lucca e i New Real Disaster, sempre da Lucca, al CPA Firenze Sud questo sabato sera. Sempre sabato, invece, diciamo nel tardo pomeriggio, fra le 15:30 e le 19, presso Piazza Santa Trinita, a Firenze, vi è l'evento organizzato dal presidio onorario Noince, turistificazione e infrastrutture nocive, lezione in piazza. Eh sì, perché la turistificazione non tocca solo la città e il centro della città, bensì anche le periferie, che sono tendenzialmente i luoghi dove vengono costruite le grandi infrastrutture che poi sono funzionali all'afflusso di enormi masse di fiumi di turisti nella città, che poi provocano tutti buona parte, insomma, tante conseguenze che poi conosciamo. E quindi questo, turistificazione e infrastrutture nocive, con Antonio Fiorentino, che se riesce a arrivare dovrebbe essere qui con noi fra poco. Siamo ancora a sabato, questo avviene di pomeriggio alle 18 allo spazio IAM in via Ghibellina 14. la presentazione del libro Il rifiuto del lavoro, teorie e pratiche dell'autonomia operaia di Ottone Ovidi, edizioni Bordeaux. Alle 18 appunto a Spazio IAM, di cosa si tratta? L'inizio e la fine dell'introduzione. Il rifiuto del lavoro salariato è un'affermazione dei bisogni radicali di libertà, di piacere, di esperienza ed è comprensione del carattere universale della rivendicazione della libertà dal lavoro, di cui è portatrice la classe operaia, eccetera. È il rifiuto più o meno organizzato dell'obbligo di produrre plusvalore. Ne parliamo appunto con Ottone Ovidi a Spazio IAM questo sabato alle 18. Invece domenica 17 novembre dalle 11 alle 17 il tema è sempre quello della turistificazione delle grandi opere. C'è un'iniziativa A chi fa gola Firenze, dibattito al presidio No Inch, No Aereo. Alle ore 11 si inizia con turistificazione e infrastrutture nocive A chi fa gola Firenze con Giorgio Pizzolo di Alterpiana e Antonio Fiorentino di Rete 7 Firenze. Alle ore 13 un pranzo sociale con una polentata e verdure genuine dell'orto collettivo di Calenzano e Montereale d'Abruzzo, banchino per la vendita dei prodotti di Montereale e patate novelle. Quindi sempre sul tema infrastrutture turistiche, diciamo dedicate all'economia turistica della città, cosa che abbiamo già affrontato diverse volte sia con i programmi come Fuoco alle Polveri ma con altre sezioni di Radio Wombat. Il tema è caldo perché ancora questo aeroporto non si capisce da se verrà fatto oppure no. Io faccio invece un passo indietro, torno a sabato sera per raccontare che ci eravamo persi la seratona all'Emerson in via di Bellagio 15 al Next Emerson. Ecco. Tre intraprendenti crew uniscono le forze e i loro differenti beats affinché il loro aiuto arrivi ai collettivi cittadini. Siete tutti chiamati a supportare l'iniziativa ballando e trasmettendo Positive Vibration, due differenti dimensioni musicali, due potenti sound, un'alchemica sala chill out. Chi suona? Beh, da un lato nella Brinborn Arena, l'Inner City Jungle, Drum and Bass, poi la Romola Sound System, Reg e Dub, mentre in Up Sit Down gli OTK con Electro Detroit e un'altra cosa impronunciabile. Il ricavato sarà devoluto a IAM, iniziativa antagonista metropolitana, e l'occupazione di Viale Corsica. Sabato sera, ricordo, dalle 23 fino a notte fonda all'Emerson. Andiamo a domenica, l'ultimo evento della settimana, domenica 17 dalle 18.30 alle 23.30 presso la Strassigna. Vi è una cena dell'olio nuovo per un autofinanziamento delle terre di Lastra. Si tratta di 3,5 ettari di terreno che verrà condiviso, che è già in verità condiviso, è aperto al lavoro di tutti, e si chiama La Guerrina Terra Sociale. Con questo abbiamo finito la nostra rassegna eventi, inizieremo gli approfondimenti. Ricordatevi che per qualsiasi segnalazione posta wombat@insiberia.net. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people put shame on it. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall. You're gonna hear me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down. Eccoci, tornando, eccoci, tornando in regia e tornando fra l'altro ai nostri ospiti. Ma è strana questa cosa che dici tornando in regia. Tornando in regia da, di da dove? Dalla linea alla regia. Linea alla regia. Tornando in studio. Tornando in studio, tornando nella tana, si può dire, perché questa sì, è sì, una tana a tutti gli effetti. Come, sì, come sì, ci eravamo ripromessi, andiamo a approfondire un paio di temi della settimana. Ora, tra l'altro io stavo cercando di passarti dei file, ma non ci riesco, e quindi buona, lasciamo perdere. Tornando appunto agli eventi, sì, sì, in particolare vogliamo parlare dell'evento di venerdì, quello con Sarah Gainsford, che è la presentazione del libro Airbnb Città Merce. E abbiamo pensato direttamente di farlo con lei e di chiamarla. Quindi adesso prontiamo i nostri potentissimi e famosissimi anche mezzi tecnici. Ciao, ciao, buonasera. È arrivato intanto Antonio Fiorentino, lo sentiremo fra poco. Adesso proviamo a telefonare a Sarah Gainsford. Un secondo di pazienza. Ci siamo, eh? Stiamo un attimo sistemandoci. Beh, abbiamo un grande problema tecnico. Mettiamo un attimo una canzoncina e appena rientriamo siamo pronti. Sì, avanti, ok, avanti, perfetto. Pronto, sì. Sara? Sì, ciao. Eccoci, finalmente, scusaci un po' di problemi tecnici. Ciao, Sara. Okay. Ci senti bene? Ti sento lontanissimi. Sì. Vai e viene. Siamo lontanissimi, noi siamo a Firenze e te ora, probabilmente sarai a Roma. Cioè, questo per i nostri mezzi probabilmente è quello, l'inghippo. Buonasera, intanto. Guarda, non sento nulla. Ecco, perfetto. Io non lo direi un buon ora segno, sì, questo. Ora ci senti? Ci senti, Sara? Pronto? fatta male. Pronto? Pronto? Sara? Sara, pronto? Mannaggia. Non ci sento. Problemi tecnici qui su Radio Wombat, Radio Verità. Questo è l'effetto di non... Allora, intanto buonasera ad Antonio Fiorentino, gli diamo un microfono e così può anche argomentare. Allora, stiamo cercando di chiamare Sara Gainsford, che come saprai benissimo ha pubblicato un libro, B&B Città Merce, lo saprai benissimo anche perché ci sei anche nominato te qui sopra nel capitolo Fiorentino con il lavoro che hai, con il lavoro... Esatto. Pronto Sara? Eccoci Sara. Ok, sì, ci siamo, vi sento. Perfetto. Risolto, sì. Speriamo che non cade la linea. Alziamo intanto il microfono anche Antonio Fiorentino, benvenuto. Okay. Ciao Antonio, che è qui con noi. Ciao Antonio. Intanto ci vedremo presto. Allora, sì. Venerdì pomeriggio. Sì, sì. Ecco, poi andando proprio a venerdì pomeriggio sarei qua a Firenze a presentare Airbnb Città Merce, quindi io volevo farti qualche domanda un po' per introdurre l'argomento e spiegare un po' di che cosa si tratta. Intanto, perché hai scelto di scrivere un libro? Sento, vabbè, viene l'audio. Comunque, sì, perché ho scelto di scrivere un libro su Airbnb? E diciamo che mi sono cominciata a interessare al fenomeno, no, del proliferare di questi affitti brevi turistici un paio di anni fa, e se ne parlava ancora poco e non c'erano dati disponibili, per cui diciamo ho iniziato semplicemente osservando la trasformazione principalmente del centro, cioè quando il fenomeno dell'overtourism è diventato insostenibile, insopportabile e sta mettendo a ferro e fuoco la città da un lato. Dall'altro lato, io ricordo, ci sono stati dei provvedimenti anche risibili, cioè che hanno fatto ridere un po' tutti, dal provvedimento antipanino di Via dei Neri, che non ha alcun senso, alle acquate sui sagrati delle chiese, eccetera, sì. Che non hanno alcun senso sul serio, se non quello di poter essere presente sulle pagine dei giornali per mezza giornata. Però la città ha riso rispetto a questo tipo di iniziative. Sì, sì. Fra l'altro io mi permetto di aggiungere, poi queste iniziative erano tutte incentrate per andare a colpire una certa fascia di turismo, cioè quello, il turismo Morde Fuggi, quello diciamo poi più popolare, mettiamola così. Gli altri provvedimenti che sono stati presi attraverso appunto regolamenti comunali sono fondamentalmente quello di tassare, cioè quello di... allora, hanno iniziato nel 2018, dal 1 gennaio 2018, mettendo una tassa di soggiorno anche per gli Airbnb, quindi erano quei 3 euro che in verità esisteva, sì, certo, di già, però certo. C'era un facile modo per eluderlo. Da quel punto loro hanno detto, va bene, allora questi soldi vengono, non passano diciamo neanche dal gestore, vengono direttamente al comune. Ora, di recente, anzi da gennaio, verranno alzate ancora queste tasse, quindi fondamentalmente il comune ha questo come arma, cioè aumentare le tasse di soggiorno, cercare addirittura di tassare anche le persone che stanno un solo giorno, no? Quelli che transitano da Firenze, per far cosa? Per fare cassa. Loro dichiarano questa cassa, poi di questi soldi, di utilizzarli per far sì che i servizi pagati dai cittadini non vengano solo pagati dai cittadini anche a favore dei turisti, che invece non versa niente, bensì appunto ci sia un contributo anche da parte di chi visita Firenze. Naturalmente il contributo, come dicevi te, è un po' incentrato su pressione di Confindustria, di Confartigianato, sul portare avanti delle misure antidegrado per una città maggiormente decorosa, più pulita, e quindi prettamente principalmente diciamo sono atti dimostrativi, no? Si mira sempre a un'immagine di Firenze, quindi fondamentalmente, se io posso sintetizzare, l'amministrazione di Firenze sta cercando di sfruttare il più possibile questo fenomeno, sia per vari motivi, sia da un punto di vista diciamo elettorale per avere un consenso, sia da un punto di vista anche proprio di attrazione di grandi multinazionali, di grandi start-up. Perché proprio sulle start-up c'è anche la proposta da parte di Nardella, è stata fatta un paio di mesi fa, di fare una Firenze, come una città con zero tasse, fra l'altro, per chi vuole aprire startup a Firenze. Ora avevo un audio, ma non sono riuscito a tirarlo giù. Ve lo faremo sentire più avanti. Quindi niente, dai, rimandiamo agli appuntamenti. D'accordo, allora ci sabato sentiamo alle 17. Vediamo, ci sentiamo venerdì innanzitutto, venerdì sabato innanzitutto, mattina e sabato pomeriggio. Sabato mattina, sabato pomeriggio in Piazza Santa Trinita. E domenica riflessiva. Esatto, polentata riflessiva al presidio, presidio. Noario Noince. Bene, ciao. Bene, allora a presto. Okay, grazie. Ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sultans, Ciao Lapo. Oh, ciao Mario. Oh, ben arrivato. Grazie. Allora si comincia? Si comincia. Era le 5 e mezzo. Piuttosto facciamo che finiamo dall'inizio. E visto che niente hai fatto per noi oggi, ricordaci. Ora non esageriamo, no, vero, non no. Sai cosa abbiamo fatto per voi oggi. Lo scopriremo la prossima settimana. Status, ma so dove vuoi andare a parare. Dove? Dove vorrò andare? So, a destra. Interrogami. Ti vorrei chiedere, per esempio, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori così fedeli che cosa è la punta e perché questa trapunta. Oh, certo, è il mio argomento preferito. Mi hai ben donde, ti do il destro per questo. Lo so bene perché proprio io insieme ad altri ci stiamo occupando di in questa prima fase di avviamento della punta, di aggiornarla. Ora vi spiego perché la punta è una grandissima, bellissima agenda condivisa che serve a avere il calendario completo delle attività e le iniziative che si svolgono negli spazi liberati della nostra cara città e dintorni. Eh sì. Che vuol dire calendario, agenda condivisa? Vuol dire che ognuno può provvedere da sé, in modo autogestito, a caricare gli eventi degli spazi che attraversa su questa piattaforma. Come fare? Per farlo serve semplicemente mandare una richiesta di adesione tramite il sito. Dovrebbe esserci una spuntina a forma di più, che se non è attiva adesso vuol dire che è in lavorazione, ma no, ma lo è, l'abbiamo provato rimessa, poco fa, sì, e l'altro non c'era. Ok, c'è. Richiedete l'adesione e così potete incominciare a inserire autonomamente gli eventi che, come dicevo, al momento stiamo caricando noi della... Prego! Esatto, della trapunta, trasmissione che è nata appunto, uno, per come redazione di avvio del sito lapunta.org e, in secondo luogo, ma primariamente, per essere la voce che riporta a voce, appunto, a voi ascoltatori, tutto ciò che settimanalmente viene aggiunto su questa bellissima agenda. Mi sembra che tu sia informissima, peccato non averti avuto prima con noi. Ma guarda, ho autonomia di 10 minuti, quindi in realtà... Te li sei ben spesi qua per concludere in bellezza questa puntata di oggi. Cari ascoltatori, noi siamo in chiusura, ci vediamo lunedì prossimo con la trapunta, vi lasciamo una canzoncina. Breve, grazie Lapo, salutiamo anche Bricco Baldo che se n'è andato lasciandoci soli ma non malinconici. Ciao Bricco! E niente, a lunedì. Bella.